20 Abbiamo scelto te per la tua voce. Sei una persona seria. Perché Eleonora non andava bene. Abbiamo scelto te, la tua voce è chiara. Riscaldatela, mi raccomando. Basta che la fai come l'abbiamo ti provata. Ti conoscono tutti. Ti conoscono tutti, sei un personaggione. Ti abbiamo pagato pure un sacco di soldi. Tanti, troppi forse. Troppi. Però ad Eleonora le davamo tipo un tozzo di pane. Tu invece sei serio. Mi raccomando, impegnati. La tua voce deve essere calda, tonante e molto chiara. Mi raccomando, sei anche venuto da fuori, dalle Americhe. Quindi già sai. Vai, pronto? Parti. Un attimo. No, lo rifacciamo. Un po' più chiaro. Scandisci meglio. Non si arrabbi. Lo rifacciamo solo un'altra volta. Lo so che l'hai lavorato con gente molto più brava. Lo so. Ripartiamo. Pronti? 3, 2, 1, via. Che succede? No. No, stava bene. Era appendato all'influenza suina. Non si può. Non si può. No, si non offenda. Basta, non offenda. No, basta. Non brutto. Allora, 3, 2, 1, via. No, si è un po' impappinato. Si è impappinato. Va ora in onda. Mi sta stretto lo stivale. Cremona, Strazzullo, Parisi. È semplice. Va bene. Ok, vada. Grande, perfetto. Grazie. Ciao. Si sentiva, eh? Che ridi. Rido così. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera da Mista Stretto lo Stivale, Radio 2010, Riccardo Cremona. Alessio Strazzullo. Come stai, Alessio? Ma... stanchino, mamma mia, era sempre ma così. Mi rispondi, si studia, si fa l'università, si fa tante cose. Una volta mi rispondessi benissimo, no, te lo dico bene. Solitamente dico bene. Va bene, mi fa piacere che tu stia bene. C'è uno in regia che sta per morire, vabbè, l'ho visto. Spero proprio... che lo salutiamo anche a proposito. Andrea Policastro, salutiamo e salutiamo soprattutto il nostro mitico DJ in regia. Corrado, come stai? Buonasera. Sai che mi si apre il cuore, anche un poco brasileiro. Sì, anche ma... buonasera. Aveva un po' la voce, anche un po' da transessuale, va visto bene, i giri, però confermo che non è transessuale. Questa è una battuta razzista, eh? No, qua razzista. Ma perché razzismo? Perché ho detto brasiliano, tu hai detto transessuale. Mi scuso per i brasiliani. Con tutti i nostri ascoltatori brasiliani. Sai quanti? Tantissimi. C'è una comunità brasiliana a Napoli di quelle che. Gli unici brasiliani a Napoli sono proprio quelli che ho detto io. Quindi smettiamola. Allora, partiamo subitissimo. Dove andiamo? Da nessuna parte, partiamo con le notizie. Ah. Allora, la notizia, noi l'abbiamo già parlato una volta. Ti ricordi Lei Mussolini? Siamo ripetitivi. No, non siamo ripetitivi. Ah, c'è uno sviluppo. C'è uno sviluppo. Ok. Allora, Lei Mussolini. Ti ricordi che avevano fatto causa di questa applicazione dell'iPhone che aveva conteneva i discorsi di Benito Mussolini? Sì. Niente, lo sviluppo è che l'applicazione è stata rimossa dall'Apple Store. Ah, ok. Sì, grazie a regia. Una vittoria, quindi. No, ma non è un motivo politico, in fondo. Cioè, non hanno toccato quello che abbiamo toccato io e te. Neanche un motivo morale. No. E qual è il motivo? È venuto l'Istituto Luce, quello là dei tuoi film che fanno pronti, adesso camminiamo. Sì. È venuto fatto, ragazzi, ma i discorsi di Mussolini sono i miei. Non puoi utilizzarli, credo. Non ci credo. E lui, cioè, loro non vogliono che venga utilizzato. Non è stato fermato per apologia al fascismo. No, assolutamente. Ma... Perché cosa? Niente, perché hanno violato il diritto del copyright dell'Istituto Luce. Una cosa scandalosa. Sì, nessuno ha nominato questa cosa che era impensabile. E io voglio ricordare, perché noi abbiamo fatto per quell'applicazione, voglio ricordare l'applicazione che abbiamo messo noi per l'iPhone. La Corona, per favore regia, mandiamola. Eccola. In questi 80 giorni è da parte di tanti. grandissimo. Da parte dello Stato, da parte dello soprattutto da parte della Procura di Potenza, Potenza è vergognoso. Ancora. E comunque, attenzione. Ancora più vergognoso. Fantastico, mi raccomando, scaricatele molti perché tanto. Ostaggio dello Stato. Ah, grazie Corona. Grazie Corona. Ci regali fantastico. Ci regali almeno altre 15 puntate. Grazie. Guarda, scaricatele molti perché questo secondo me funziona e nessuno ha i diritti di Corona, neanche Corona, neanche Corona stesso, anche perché è patrimonio nazionale, esatto. Diciamo così, è patrimonio nazionale. Andiamo avanti con la notizia, raccontami tu questa notizia di cinematografia, sì, molto, allora, un po' piccante. È uscito Avatar, tutta la solita questione, sì, del film più costoso, che è incassato di più costoso, gente blu che costa milioni di milioni, come un tempo era Waterworld, non so se te lo ricordi, come il no, film con Kevin Costner, era quello il film più costoso. Poi Titanic. Tra l'altro lo stesso regista. Adesso Avatar. Sì, okay. Non l'ho visto Avatar. Diciamo, dopo l'uscita di Avatar, tutti hanno detto: l'idea di Avatar l'ho avuta io. Che è anche comprensibile, sì, perché non è un'idea così anche degli particolare italiani. Sì, non è un'idea così particolare. A me l'idea particolare sembrava Pocahontas fatto in 3D. Sì, io non l'ho ancora visto. Neanche io, credo non l'ho vedere. Siamo impopolari in due modi diversi, però questa volta siamo impopolari riguardo la stessa questione. Non abbiamo ancora visto Avatar, non è un problema. Comunque, Tinto Brass è una perla, un signore regista proprio. Esatto, un signor regista, un maestro dell'arte italiana. No, dell'arte italiana. Dell'arte italiano. Dice che vuole girare il primo film in 3D. Ricordiamo i titoli di alcuni film di Tinto Brass, sì. Miranda, Fallo, mi raccomando guardateli, sono dei filmoni. E il film tratterà, riprendendo un vecchio progetto del 1979, sull'imperatore di Roma Caligola, che gli fu scippato, dice, dagli americani, e ne faccio adesso un nuovo film in 3D. Un porno in 3D. Non è un porno, no, è eccessivo. Lui dice sempre che fa cinema hard. È un porno. Cioè, un cinema hard. Vabbè, questa è una bella. Dalla regia dicono erotico. È un bel dibattito. Vabbè, questo... perché lui dice che i suoi film sono erotici. Però io in fondo vedo pene e vagine come se fossero proprio a morire. Sì, anche se mi pare di aver letto che lui usi solo falli finti. Solo falli finti. Però culi veri, perché io ho visto culi veri. Culi veri e falli finti. Il prossimo film di Tinto Brass. Freud, per questa storia dei falli finti nei suoi film, penso che. Va bene, potrebbe parlare chiunque film Tinto Brass. Peccato che Freud sia morto. E non potrà vedere film Tinto Brass. E comunque, come sarà l'effetto film, 3D? Lui che cosa dice? Il film si dovrebbe chiamare Chi ha ucciso Caligola. Ah. È stato ribattezzato subito. Con una battutina proprio semplice di quelle. Spero che non mi sarà messo neanche un. Ah! Dopo che dico questa cosa, perché è scandalosa. Il film si dovrebbe chiamare Chi Avatar. Eccolo là, Chi Avatar. Ma come pretendi che non arrivi? Ribattezzato da tutti, appunto, Chi Avatar. Ovviamente. Che classe. E lui cosa dice questo film in 3D? E dice che praticamente, se un'attrice avvicina una mano alla telecamera, hai la sensazione che la infili sotto i tuoi pantaloni. Esperienza magnifica. E io ci vado subito al cinema. Tutti al cinema. Ho visto delle scene e devo dire che affinare la sensorialità porta ad affinare la sensualità. Mamma mia, che un teorico. Che dice però che tu vai al cinema e vedi una fila mano nel pantalone, senti la stessa cosa. Ma adesso dico una cosa. Sì. Se nel film accade, sì, che c'è, diciamo così, una scena di sesso passivo, tu che sei seduto, cosa senti? Perché io non sono molto d'accordo. Oggi è una puntata piena di Io non sono molto d'accordo. Non vado al cinema se rischio di sentire anche altro. Tu non vai al cinema. Ah, perché tu ci vai? No, io personalmente no. Finché la mano nei pantaloni di una bella pornattrice attrice di film erotici, in questo caso vestita da antica romana, Molto bella, mi fa anche piacere. Ma se poi arriva Giulio Cesare, diciamo così, e vuole farmi vedere il triumvirato, io che cosa faccio? C'è qualcosa che non va. Andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Parliamo della notizia modernissima riguardo, sì, tutto Sanremo che sta arrivando adesso. Quanto mi dispiace questo. Fatto lo saprai sicuramente. Scusate, sono un po' malaticcio. Lo saprai sicuramente. Si parla di Marco Castoldi. Sì, Morgan. Morgan ha fatto un'intervista a Max, sì, che non è ancora uscita perché esce il 4 febbraio, quindi oggi in teoria esce. Sì, quindi è stata una preview, una preview dell'intervista, dove lui ha ammesso che fa uso di sostanze stupefacenti, di droghe. Tra l'altro il crack. Sì, perché lui ha detto che prende la cocaina in basi, che sarebbe il crack. Che è una cosa terribile. È una cosa terribile, una delle droghe più deleterie, che ti distrugge il cervello. La cosa che lui invece l'ha enfatizzata, dicendo che lui l'ha utilizzata per curarsi la depressione, antidepressivo, perché invece gli antidepressivi davano i medici non funzionavano. Sì, diciamo che è una cura omeopatica. No, riconosciuta, diciamo, l'utilizzo di alcune droghe per combattere alcuni fenomeni psichici, li possiamo definire, però. Sì, però ti fa anche partire il cervello, ormai il crack ti brucia proprio il cervello. Lui ha detto che lo usa con un uso quotidiano e regolare, e tra l'altro dice che la droga apre i sensi a chi li ha più sviluppati e lui, sì, chiude agli altri. Questo è un vecchio dibattito. Questo è un vecchio dibattito riguardo a molti artisti che hanno usato droghe. Secondo me usare droghe non è oggettivamente sbagliato. Nel senso, come? Nel senso, se uno riesce ad avere una vita normale, non dar fastidio al prossimo, io non lo farei. Però ci può stare. Ho capito che faccio. Dici, cioè, nel senso, se vuoi drogarti, se vuoi sono drogarti, affari drogati. Tuoi, se però non ledi anche me. Esatto, cioè se non vieni poi una notte mi vieni a spaccare i vetri di casa. Perché hai bisogno di prendere soldi una mazza. Per okay. La dose. Okay. Vabbè, io infatti. Quello che sconvolge di più, però, è effettivamente una rivelazione a tutti i giornali. E tra l'altro, lui non è scampato alle conseguenze. No, conseguenza ovvio. Di tutto questo è che è stato espulso da Sanremo. Un peccato, perché tra l'altro stiamo sentendo una canzone, una delle mie canzoni preferite. Anche a me piace molto Morgan comunque. Dispiace, perché comunque altrove. Dispiace soprattutto aver visto la reazione del pubblico a questa cosa. Sì, perché l'hanno attaccato. È stata una reazione molto forte. Secondo me eccessiva, perché. Sì, anche perché, cioè, parliamo di una persona che ha avuto il coraggio, di ammettere una cosa. Poi comunque posso dire una cosa. Sì, già so cosa puoi essere molto più pratico, sì. Mi dispiace anche per Morgan, ma non è che io guardandolo pensassi che lui non potesse fare uso, sì, di droghe. No, infatti. E non era un mio problema, anche perché secondo me è un bravissimo artista, un artista, tra l'altro lui è un musicista, è laureato, è compositore, sì, cioè lui è una persona seria, di musica ne sa. Non scherziamo, ce lo ricordiamo in X Factor, tra l'altro, e grazie a lui l'unico motivo per cui guardavo quel programma, perché Io ne ho scritto un po' male di X Factor, però, lo sai. Perché. Però io lui, anche a me piaceva, però io apprezzavo lui per i brani che sceglieva, la voglia di far conoscere gli italiani, sì, alcuni artisti. Questo è un, cioè lui è andato oltre il commerciale. Questo è un grandissimo. E non era facile valore. Perché tra l'altro è un programma quasi ovviamente commerciale. Sì, tutti mettevano canzoni famosissime, Tiziano Ferro, Lady Gaga, gente ascoltatissima, sì. E lui metteva pezzi di cantatori italiani, soprattutto seri, parliamo di Tenco, Bindi. No, ma lui, cioè, lui, Bruno è un, Martino. Lui è un grande artista, secondo me. Mi piace molto anche personalmente, per quanto riguarda il mio gusto personale. L'unica perplessità che ho è sul fatto che il pubblico l'abbia attaccato su una questione così chiara e limpida. Nel, sì, senso, perché lui nel mondo dello spettacolo si sa. Sì, mia madre usa sempre dire: wow, ho visto quello ieri alla televisione, stava completamente fatto. Ma sai, però è un po' la verità. Nel senso, capita, si fanno non nel è mondo un... dello spettacolo. Sì, sì. E sinceramente ho visto anche presentatrici che si fingono molto serie arrivare completamente strafatte, sì, in televisione. Quindi non è una novità. E non è una novità. Secondo me ha trattato bene l'argomento Costantino della Gherardisca. Ah, chi sì. È Costantino della Gherardisca? Ospite spesso anche al programma di Chiambretti, sì, anche visto. Ieri sera, tra l'altro. Sì, l'ho visto. Una persona molto intelligente, molto preparata, che un po' radical, lui gioca, sì, vabbè, radical, gioca conduce su questo. Un programma bellissimo che si chiama Dispenser su Radio 2. E che cosa ha detto e lui? Lui dice sul suo blog, che è dellagherardesca.com, Morgan è stato messo in mezzo dal giornalista, scusatemi, Raffaele Panizza, in un articolo che ha fatto il Giro d'Italia. Non ci querelare, Raffaele. Sì, no, infatti, stiamo riportando notizie dal... Sì. Fin lì la situazione era abbastanza chiara. Marco Castoldi, troppo buono ed in stato confusionale, non ha minacciato Panizza con degli avvocati che farebbero arrossire Previti, come avrei fatto io molto fottutamente volentieri. Anche io molto fottutamente e dice, volentieri. Io non sono un fan della musica di Morgan, continua della Gherardisca, ma quando la sua fiducia è stata tradita e poi è stato condannato dall'organizzazione del peggior festival del mondo, lui è molto... Parliamo di Sanremo. Di Sanremo. Nonché dalla Meloni, Giovanardi, sì, eccetera, che hanno parlato, sì. Ha riscosso la mia simpatia. simpatia che sta svanendo rapidamente con le sue scuse in retromarcia. Sì, perché lui si è scusato, sì, dicendo che non lo farà più, che vuole fare un percorso di... Esatto, una vera rockstar, se hai riflettori puntati ed il microfono acceso, non chiede scusa. Giustissimo, giustissimo, io sono con lui, io... Una smentire presa di... le smentite. Esatto, una... Cioè, insomma, Morgan, non tornare indietro, hai fatto questa cosa, hai fatto un velo comunque. Cioè, dici che usare le droghe non è una cosa buona, questo sì. Però non tornare indietro, ormai l'hai detto, facciamo sei un ottimo artista, facciamo un passo avanti, no? Sì. Cioè, sdoganiamo alcuni discorsi. Cioè, facciamolo. E io ti voglio dare un consiglio, sì, un po' così, un po' simpatichello, sì, visto che hanno colpito te, sì, per colpire un sistema intero, perché ovviamente abbiamo detto che in questo sistema gira comunque la droga. Fai qualche nome, dai. No, nel nome non posso farlo. Mi stava scappando qualche nome, mi stavi fregando alla grande. E voglio consigliarti una cosa nostra di un altro famosissimo personaggio che anche lui è stato colpito per colpire un sistema. Sì. Il nostro non perdona. Ancora. E quindi ti voglio consigliare Ancora. L'applicazione dell'iPhone. Per favore, regia, facciamo la partita. Basta. Perché anche allora, tu, Morgan, ti sei sentito sicuramente ostaggio dello Stato. Ostaggio dello Stato. Dello Stato. Lo dice lui. Ecco. Vabbè, quindi mi raccomando, scaricatela, così ti sentirai anche tu più forte come il nostro Corona non perdona. Oh, ti siamo vicini, Morgan. Ti siamo vicini, un abbraccio, mi piace molto. Abbraccio. Allora passiamo subito ad un'altra notizia, Alessio. Vogliamo parlare? Sì, volano le notizie. Parliamo delle notizie di questa qua. Questa questa è interessante. Questa è rapida e concisa e molto carina. Molto interessante. Roma, scooter e moto insieme ai bus e taxi nelle corsie preferenziali, nelle ore di punta contro gli ingorghi. Ah, che bella idea, che bella idea. Sì, è l'ultima proposta in ordine di tempo annunciata dal vice sindaco Mauro Cutrufo. Di Cutrufo, Roma, come non sai. Lo so, sì, di Roma. Cutrufo, che bel cognome. E poi questa ricetta vanta il successo di Londra e l'esperienza di Milano che ha iniziato alcuni anni fa e oggi conta su 10 km di corsie riservate dove possono transitare le moto. Cioè, allora, parliamo. Stiamo dicendo praticamente di una disposizione che permette ai ciclomotori, diciamo così, di andare anche nelle corsie preferenziali che sappiamo che sono riservate ai taxi e ai mezzi pubblici. Sì. Per che cosa? Per decongestionare. Bravo, mi sei piaciuto. Decongestionare il traffico. Studio lettere. Allora, devo tanto... dire una cosa. Si stanno sbattendo Cutrufo, Milano, Londra. Siete arrivati tardi. Ma tardissimo. A Napoli da circa 20-40 anni che la gente va su quelle corsie. Ma stiamo scherzando. Ma sono decenni. Ma stiamo scherzando. Una volta. Che una cosa volta, è successo allora, una volta? Questa, il nostro DJ beve un poncio caldo. E l'abbiamo appena sentito sottofondo. Com'è? Lo sentiamo. Com'è? È buono. Stavi succoso, dicendo. Succoso. Stavi dicendo. Riscalda. Fa un po' freddino a Napoli. Diciamo. Allora, basta, per cortesia, basta. Allora, ero in macchina quando facevo il musicista. Stavo andando a suonare. E un mio carissimo batterista prende la corsia preferenziale. Sì, la prendo anche di io, ammetto. Quella normale. Faccio. Peppe. Ma questa è una corsia preferenziale. Lui mi guarda e fa: la preferisco. Questa cosa è stata rubata. O almeno. È venuta in mente anche ad un famoso comico di Napoli, però vi assicuro che io glielo ho sentito dire a questo mio amico ed effettivamente è così, cioè a Napoli preferiamo la corsia preferenziale. È da anni preferiamo la corsia preferenziale. Ma non solo con i motorini, con le macchine, con i passeggini, ma di tutto, con le ape car. I cosiddetti tre ruote napoletani, o tre ruote. Esatto. Tutti che camminano, praticamente c'è tutto il traffico nella corsia preferenziale e fuori non c'è nulla. Cioè, Napoli è venuta prima di Londra, insomma, siete in ritardo, non vi appropriate. Comunque non risolve il problema. Non risolve il problema sicuramente. Anche perché se poi camminiamo a 20 all'ora nella corsia preferenziale, perché siamo parecchi dentro lì, non risolviamo il problema. Quindi se in ritardo, mio caro signor Cutrufo. Attenzione, notizia di varietà. C'è un famosissimo personaggio, famosissimo per le sue illazioni. Parliamo di Ali Ajka, il lupo grigio. Quel decelebrato, il nuovo messia che scriverà, il Gesù eterno che arriva. Ha fatto delle rivendicazioni, cioè delle... Come ce la possiamo oggi fare? Oggi non ci sono proprio. Parole no. Mi sento un po' ostaggio dello Stato. Sei ostaggio della grammatica oggi. Scusate, aspetto. Ha lasciato delle dichiarazioni parlando del caso Orlandi, Emanuela Orlandi. Sì. Ragazza scomparsa e ha detto ai familiari dell'Orlandi che sarebbe viva. Per cortesia, è un momento serio. lui sarebbe viva addirittura. Vabbè, io posso dare un consiglio ai parenti, non per favore, è un cretino. Ma non si sa bene la situazione. No, beh, però uno che dice un Gesù eterno, certo, scriverò la Bibbia, ha sparato al Papa. Scriverò la Bibbia nuova. Cioè, uno dei Papa più bravi che abbiamo avuto, Gesù eterno, scriverò la Bibbia è piena di errori. E comunque questo personaggio di dubbio gusto, diciamo la verità, andrà a ballare a Ballando sotto le stelle turco. Che tra l'altro penso che sia una cosa terribile in Turchia. Terribile. Pensa allora, che io sono stato in Turchia. Istanbul è un posto meraviglioso. Sì. Però secondo me il ballando, già quello italiano non si può guardare. No, non so se quello turco sia. No, penso molto peggio. No, non è detto. E tra l'altro, cominciamo a dire che c'è Ali Giagica, quindi già fatto non male. Lo pagheranno. In regia continuano a bere. Lo pagheranno $500,000. Ma tanti soldi. Cioè, ma questo ha sparato al Papa. È completamente pazzo. Va a ballare in televisione, non sapendo ballare, senza dubbio. E lo pagano pure. Al meraviglioso Ballando sotto le stelle. Parlando di varietà. E qua, senti, prendo io il microfono perché voglio raccontarti questa storia e voglio sapere tu cosa ne pensi. Parliamo di uno dei programmi più belli, sai che io amo. Un programma culturale che fa. Il Grande Fratello. No. Un altro programma, cioè Amici di Maria De Filippo. No, sembra proprio grande cultura, proprio grande, proprio grandi programmi. No, c'entra il Grande Fratello, perché stiamo parlando di una concorrente del Grande Fratello. Sì. Grande Fratello 7. Sì. Francesca Cipriani, una bionda non maggiorata. Non so chi sia. Una bionda maggiorata. Faccio una piccola ricerca, la guardo. Tu intanto falla, intanto come si chiama, come si chiama? Francesca Cipriani. Cipriani. Allora, metti le foto anche perché è carina. E stavo dicendo, Francesca Cipriani porta una quinta di Reggiseno. Ah, è piccolino, come una coppa di champagne. Sì, porta una quinta una di cosarella, Reggiseno. Diciamo. È una cosarella così. E ha deciso di passare a una settima di Reggiseno. Ma non dell'ultimo Grande Fratello. No, del 7, l'ho detto. Sì, vabbè. Del 7, Grande Fratello 7. Me la ricordo. Te la ricordi? Vedi, tra l'altro foto solo di tette sono uscite, tra l'altro. Sì, sì. E niente, lei ha già una quinta, quindi è bella, diciamo, cioè, che lei sta non bene. È bellissima, però effettivamente Vabbè, diciamo che almeno a seno sta messa bene. Sì, sicuramente. E lei non contenta ha deciso di non è che me ne fotti più di tanto, diciamo la verità, però ha deciso di passare da una quinta a una settima. Ah, così. Così, perché quinta era piccola, settima. Così schiaffeggiamo un po' di persone, diciamo. E tra l'altro la cosa bella è che la televisione culturale sì, è andata a intervistarla. Questa secondo te era la quinta o la settima? Secondo me questa è la quinta. Molto carina comunque. Immagina la settima con le mani non riescono più a chiudere. No. C'è una foto di lei che si tiene il seno. Vede, il nostro DJ voleva controllare che seno era, se quinta. Com'è, quinta o settima? Eccolo lì. E comunque la cosa bella è che l'irreprensibile la professionista Barbara D'Urso Barbara, bella donna però, bella donna. Barbara, allora sei napoletana come noi. Non so se riuscirai mai a sentire questo programma. Non so se riuscirai mai a sentire questo programma. Però Barbara, smettila, facci una telefonata. Faccia una telefonata. No, no, io sto parlando a titolo personale. Ah. Facci una telefonata, invitami al tuo programma, fatti stringere la mano, fatti dare due bacetti perché sei una donna meravigliosa. Sì, però io ho fatto una critica. Nel tuo programma, Pomeriggio 5, che già non è secondo me il massimo della cultura. Vabbè, diciamo che non ho trovato delle foto piccanti qui. Per favore, smettila. Siamo dei professionisti. Sì, sì, prego. E comunque, Pomeriggio 5. Ah, vedo dei seni. Chiaramente rifatti. E pensa che ha continuato ancora di più. Sì, vabbè, ma sono finti. E pensa alla settima, cosa vuol dire? Comunque lei, Barbara D'Urso, per aumentare la cultura del suo programma, ha fatto un collegamento in diretta dall'ospedale. Non ci credo. Cioè, no, Barbara, ma noi che... Barbara, ma tu sei una professionista. Ma fammelo dire. Sì. Ma noi che cazzo ce ne frega di vedere Barbara, questa che si rifà il seno? Barbara, ma perché? Ma perché non diamo una mano ad aiutare? Insomma, Morgan ha fatto tutta questa cosa di provare a sdoganare. Si prova a fare un po' di cultura. Intanto sento un telefonino. Qualcuno spenga i telefonini? No, non lo sentiamo. Sento solo io in cuffia. Sì. Vabbè, comunque. E Barbara, cioè, dai. Smettila. Basta. Smettila. Almeno tu, dai. E poi comunque Francesca Cipriani, se vuole venirci a trovare in studio, noi saremmo contentissimi. E altra notizia di attualità e varietà carinissima. Ah, questa è importante. Questa è importante, è importante. La protagonista dei gossip. Patrizia D'Addario. La famosissima. Famosissima. Nota. La monaca di Monza. Nota. La escort. Patrizia D'Addario. Patrizia La Ford Escort. La Ford Escort. Patrizia D'Addario si è data alla musica, Riccardo. Scusa, io mi ricordo che se l'aveva data. L'aveva. E basta. No, che succede? Che succede? Abbiamo visto partire anche lei è stato un po' ostaggio all'estate. Più che dello stato, del membro dello stato. L'escort di Bari, leggo, diventata famosa per le sue rivelazioni in merito alla notte trascorsa a Palazzo Grazioli. E che notte, Romana del presidente del consiglio Sconi. Oni, e che notte. Sconi. Berlusconi. Che notte. Ha deciso di diventare una cantante. Allora, guarda, proprio un po' come se tu domani mattina sì, ti svegliassi e dicessi: voglio fare la escort oggi. Guarda, domani mattina mi sveglio per fare la Ford Escort. Esatto. Non ho proprio le requisiti io. Se non fosse per il fatto che tu non sei cantante. No, ma neanche lei. Una metafora. Esatto. Però lei era escort. E quindi con questa pubblicità di escort. Esatto. Ha voluto fare così un CD. Dopo aver dato alle stampe un libro nel quale raccontava del suo incontro con il cavaliere. Per cui, ok, sì, a noi ci interessa. Però comunque a me non è che. Che notte, che notte. Sì, non è che mi fa tanto piacere immaginare Berlusconi. No, neanche a me. Che fa il membro del governo. No, non mi interessa. Non mi interessa guardare il membro del governo io, sinceramente. Cioè. Massimo rispetto, signor Berlusconi. No, Massimo, magari a letto c'ha anche il suo. Però. Un tromber de femme. Però ci fa un po' schifo. No, mi fa un po' schifo. Certo, un uomo che si. Cioè, anche la sua età. Cioè, ci capisca. A lei non farebbe schifo immaginare Cremona nudo nel letto? Ah, guarda, lui non mi vede, però comunque penso sia meglio. Lui vede tutto. Lui vede tutto, ha ragione. Tutti vede. Vabbè, comunque non ci interessava molto. Cioè, ci interessava come notizia, ma non i particolari che invece ha da dare. Nel libro parlava anche della sua vita, piuttosto tormentata e fatta di uomini che non l'hanno mai trattata bene. Certo, se fai la escort ti fai pagare per darla. Sì. Cosa speri, carissima? Scusami. Ora Patrizia Daddario ci prova con il canto. Il suo primo singolo, All You Want. Oh, All You Want. It's Money. È stato presentato al 44esimo mercato internazionale del disco e dell'edizione musicale di Cannes. E tutti quanti hanno risposto così. Probabilmente. Mi sembra probabilmente, ovvio, mi sembra ovvio. Patrizia, dai. Patrizia, per favore, torna a fare la escort. Che mi ricordo che eri molto brava. A quanto pare. Rendeva. No, o almeno, datti una regolata. Cioè, non possiamo passare da escort che la diamo via come se non fosse tua, pagandola, ovviamente. Sì. Scrittrice è dubito perché vai a cantare i cazzi degli altri, eppure là potevi smetterla. E poi ti ci metti pure col canto. Cioè, per cortesia, lasciaci qualcosa. Manca soltanto che vieni qua e fai la radio. Brava, abbiamo finito. Non ne possiamo più. Non ne possiamo più. Anche se. Se ci vuoi venire a se trovare. Se ci vuoi venire a trovare. Guarda, quello uno che ha un sacco di soldi. Non c'è. Ma non. No, Riccardo. Se ci vuoi venire a trovare, ce la rilascio una bella intervista. Pensa, Patrizia. Quella si piglia soldi pure per intervista. Aspetta. Pensa, Patrizia, vieni a fare un'intervista gratis qui. Sì, a gratis. Dici tutta la verità. Dici tutte le stronzate che vuoi, tanto qua nessuno ci ascolta. Sì, il giorno dopo abbiamo chiuso tutti. Cioè, liberati. Ma liberati. Gratis, quando mai? Questa si fa pagare pure se la chiami sul cellulare. No, ma prova a sentire, lei non ti risponde, se non gli fai una ricarica post-pay. Lei c'è anche ricarica post-pay. Patri, ti salutiamo. Se vuoi venire qua con... Ciao, Patrizia. Con Barbara D'Urso, sì, in compagnia, come si chiama, Francesca Cipriani, tutti quanti qui, facciamo così una bella ammucchiata. Ci sentiamo tutti quanti, ostaggio dello Stato. Facciamo una bella ammucchiata e stiamo a posto così. Perfetto. E va bene, abbiamo finito le notizie del primo blocco, manderemo un pezzo musicale. Attenzione, questa va risentita. Ostaggio dello Stato. E manderemo un pezzo. Sì, lo mandiamo e ne parliamo dopo, dai. Ok. Ciao. Bravissimo, bravissimo. Abbiamo appena ascoltato Mario Romano con Cerchemi Capì. Molto sì, bravo. Sì, molto bravo. Grande musicista. L'abbiamo mandato una volta, noi abbiamo mandato un altro pezzo. Perché oggi. Ci è piaciuto, perché molto, ci è piaciuto, molto. Ci è piaciuto. E adesso io ho invitato il nostro mitico Ascanio Mummolo. Perché vuoi fare qualche domanda un po' particolare. Sì, Ascanio, sì, ci bla, sei? Bla, bla. Pronto. Ascanio, come Pronto. Sta? Ascanio. Buonasera, buonasera. Radio 2010, Riccardo Cremona, Alessio sì, Stazzullo. Buonasera. Buonasera. Vedo che c'è un po' di freddo fra no, due. No, stasera non ho proprio voglia di litigare, signor Ascanio. Meno male, ho mangiato anche pesante. Questo potrebbe influenzare. Che cosa ha mangiato? Sono cazzi miei. Ecco, vedo che subito lei, come al solito, vabbè, volevo fare colloquio, però lei non vuole. Andiamo avanti, facciamo in serie. Allora, niente, la notizia che abbiamo parlato di oggi è stato che Morgan, Marco Castoldi, lo conosce? Non lo so, chi è? Morgan, l'ex cantante del Blue Vertigo. Ah sì, quella banda di drogati tossici. No, no, dai. E comunque lui ha svelato che utilizza droghe, fa uso. Ma si sapeva, c'era bisogno che lo diceva. È un cretino. Sì, è quello che diciamo noi, nel fondo si sapeva. Stati zitto, tanto si sa. Che sono i Blue Vertigo? Ah, i drogati tossici, bravo, bravo. Hanno fatto anche un centro sociale sui tossici. Cioè, dice lei, come ho detto io, si sapeva, comunque anche guardandolo si diceva che in fondo, guardandolo, si vedeva che faceva uso di droghe, o sbaglio? Stiamo scherzando? Cioè, solo un cretino non se ne accorgerebbe. Mi sembra giusto. Niente, allora, lui faceva uso di crack. Addirittura se bevevi l'acqua, vedevi che usciva l'acqua dalle braccia. Cos'è? Ma no! No, no, no, no, specifichiamo, lui non si drogava via vena, lui usava il crack. Conosce il crack? Come no, lo conosco. Però questo è quello che dice a voi. Eh no, beh, lui già no, è tanto. No, no. Signor Mummolo, è stato molto sincero. È stato sincero. Ha detto crack. Che fuma il crack perché apre i sensi. Lei cosa ne pensa? Ma poi è cretino, cioè, poi devi fare i denti. Perché poi si rovinano. È vero, abbiamo detto che il crack crea degli effetti devastanti sul corpo. Vaffanculo, fumati le sigarette come fare cristiani. Oppure ecco. Alcolizzati, schiattati il fegato. Rilassato. Lui ha sempre. La mattina alla sera. Come? Lei beve parecchio? È ovvio. Ah, come non è ovvio che lei beva parecchio. Senta, un imprenditore di un certo livello si trova a bere. Perché poi dopo lo invitano e dico, che fai, un bevi? Ha capito, vabbè. Ho capito, certo. Ma quanto le offrono da bere? Cioè, abbastanza. Cosa ha bevuto? L'ultimo drink che ha bevuto? L'ultimo? Quindi da stamattina fino adesso? Oppure come da stamattina? Lei ha bevuto pure stamattina appena sveglio? Scusi, ma lei appena sveglio che si prende? Il caffè. Mi lavo i denti. Anche. No, anch'io mi lavo i denti. Però con l'acqua normale, sì, perché sì. Come si lavano i denti? Ma con lo champagne si sa, saranno i bollicini. Vabbè, questa è una leggenda che i ricchi lo no, fanno. No, non è una leggenda, io lo faccio veramente. Spendo vabbè. 20.000 euro l'anno. Vabbè, io però, 20.000 euro l'anno è di dentifricio. No, no, di champagne, stronzo. Vabbè, dentifricio come champagne. No, che ignorante, non offendi guarda. Anche me perché io non ho proprio questi soldi. I centri sociali bassi, ma quella che tengo le case proprio a terra. I bassi, mi pare che si chiamano. Sì, da bassi. Da voi ce ne sono parecchi. Sì, bassi che napoletani. Che schifo, io apro la porta della macchina e in casa di uno, ci rendiamo conto. Ha ragione. Schifo. Ha ragione. Quindi, ma come ha ragione? È vero, non è una bella cosa i bassi comunque, sono una tradizione. Non è, una cosa è uno schifo. Ma sì. lei prima che si infervori, ma lei che rapporto ha con la droga? Bella domanda. Io non ho rapporti con la droga. Ecco. Poi non so se lei ha varie depravazioni con la droga. Io la droga non ci faccio niente. Lei si distrugge solo con l'alcol. Qualche distruggersi è un modo di vivere. Voglio sapere la domanda. Io per la mattina prendo il caffè. Lei cosa beve la mattina? Ma perché mattina presto un gin lemon? Perché mattina presto prendiamo un gin lemon. Sì. Il gin, circa sì. 40 gradi credo il gin. Fa freddo. No, come che c'entra? Resta a casa. Io bevo il caffè e il gin lemon per svegliarsi. È ovvio, certo. E a pranzo il bicchiere di vino? No. Come no? No. Ma fa bene pure bere un bicchiere. Ma il vino è passato. Cioè prima si portava il vino. Andiamo in vineria, andiamo a prendere il vino. No, ma che cosa no? Ma il brandy, il whisky. A pranzo, è ovvio, certo. Si fa uno spaghetto Perché così si digerisce pure mentre si mangia, no? Ho capito, perché vi si distrugge fisicamente. Partono certi lutti. Bellissimi. Soprattutto verso Natale, Capodanno. Viene proprio bellissimo. Che bella immagine. Certi boati. Stupendi. Bella immagine a casa Mummolo. Il signor Mummolo, la moglie, che ricordiamo che si chiama. E altri 7-800 invitati. Lei a pranzo 7-800 invitati. Certo. Sua moglie cucina per tutti. Ma mia moglie non ha mai cucinato. Neanche se sa cucinare. Ascania! Sai cucinare! Ma io mi ricordavo. Rispondi! Ma Ma non... No, non sa cucinare. Io mi ricordo che si chiamava Maria. Lei ha detto che voleva che si chiamasse Ascania. No, no, io l'ho fatto cambiare nome. Ah, andato, è cambiato. Sì, sì, sì. Ascania adesso... Mummolo. Adesso siete coniugi Mummolo, Ascanio, Ascania. Certo. Che cosa fantastica. Fantastica e terribile allo stesso momento. Tra l'altro, ho avuto un piccolo battibecco con... Ti posso con zio? Se stai mangiando, perché adesso da solo sta mangiando. Che persona maleducata. Potresti evitare di parlare mentre poi proprio mangi. Quando parlo io. Tra l'altro stronzo di merda. No. Che no. Schifo. Mi dispiace. Che cosa hai mangiato? Il pane dei piccioni? Lo sei andato a rubare a loro? Stronzo, vai a lavorare. Signor Mummolo. Cazzo. Signor Mummolo. Si calmi. Lei ha avuto un battibecco. Cioè un battibecco. Ha ringraziato le persone e le facevano i complimenti sul blog. Certo. Ho visto che lei. Estimatori. Ho visto che lei, tra l'altro, utilizza internet. È venuto proprio sul nostro blog. No, io in realtà ho scritto su Google Mummolo per vedere a che gradatoria stavo. Lei è un mitomane. Mi sono ritrovato. D'altronde l'ho scritto anche sul vostro sito. Sì, abbiamo letto. Cacoso. Però come? Non è bellissimo. Vabbè, non ci offenda. Abbiamo due grandi grafici. Non però. Vabbè, lasciamo stare. Beh, due grandi grafici. Salutiamoli, Corrado Pariso e Fernanda Teta. Mi raccomando. Teta. Sì. Va bene. Perché? Che c'ha da dire sul cognome? È molto cognome. Dai, perché? Scusi. Mummolo, dai. Mummolo, Teta. Oh, Mummolo è stupendo. Mummolo è proprio l'istituzione del Mummolo. E Teta invece? Teta è proprio. C'è Teta a terra a terra. Va bene. Anche Parisi. Parisi è un cognome più banale. Va bene. Dio santo. Io vorrei difenderli. Sono due bravissimi grafici. Con dei bellissimi cognomi. Teta, sono molto affascinato, tra l'altro. Vabbè, quindi lei è venuto, che cosa ha visto sul nostro fono? Ho visto che abbiamo avuto un sacco di... Ho visto una ragazza, che se non mi sbaglio si chiama Tiziana. Sì, Tiziana. Sì, Tiziana. Sì, Tiziana, confermato. Sì, Tiziana. Perfetto. Che però si firma con un altro nick, io vorrei anche dirlo perché è bellissimo con che nick si firma, e vorrei anche giocarci un po' su. Si firma come, eccolo qui, però, Sweet Simba. No. Sweet Simba. Tiziana, Sweet Simba, ma falla finita. Tiziana, è più un bel nome. Piccolo leoncino. Ah, no, sappiamo che Tiziana, tra l'altro, è fidanzata. È fidanzata. Con chi? Con un certo, leggo sopra, Carlo, il nostro Zelligol, il nostro ascoltatore. Ma uno che si chiama... Tiziana, lascia. Attenzione. Tiziana, già ti ho commentato, già sai, però c'è uno che si fa chiamare Zelligol. Ma che cazzo significa? Vabbè, si chiama Carlo. Si chiama Carlo, è un nickname. Nick. Sì, lei che nickname avrebbe scelto? Nickname. Ah, ecco, lei che nickname avrebbe no, scelto? No, oppure che Ascanio. Mummolo. Mummolo, contate O. L'H finale. Tante O e H finale. Vuoi salutare Tiziana? So che l'hai ciao salutato. Tiziana, mi raccomando, votami sempre e ricordati. Ma a che cosa? Che non ci sono le votazioni. Vabbè, lui si sta a candidare però. Votami sempre. Allora, tu vuoi rimanere fuori al mio partito, non ci sono problemi. Però poi dopo, se inizi a prendere cazzi a destra e a manca, non venire da Mummolo a piangere poi. Ecco. Perché Mummolo aiuta chi vuole essere aiutato. Soprattutto chi aiuta Mummolo. Ecco. Però, tutti però ricordate, gente per noi, gente per voi. Servono tutti. Il nostro motto. Non è il vostro, è il mio! Il suo motto. Scusi. Dio santo! Il motto. C'è il copyright. Vabbè, perché io voterò Mummolo. Ah, perfetto, bravo ragazzo. Grazie, bravo. Grazie. Poi mi raccomando, ricorda di passare da me. Ovviamente, se no che lo vota a fare, mi sembra ovvio. E niente, quindi... Fai venire pure il tuo amico, non ti preoccupare, fallo venire. Io in casa sua non ci metto piede neanche se paga legno. Ti immagini come... Non ti preoccupare. Per te c'è una bella casetta di legno fatta su misura per te. Una casetta di legno? Sì, molto carina. Anche pregiato il legno. Molto piccola, scommetto. No, è su misura, diciamo, quasi come un abito. Ah, un abito di legno. Un abito. Ma ti immagini com'è casa Mummolo? Un castello. Com'è casa Mummolo? Un'enorme rampa di scale. Un'enorme rampa di scale che porta in un salotto. Voglio richiederlo. Com'è casa Mummolo? Bella. Bella. Ma che area ti tira? Ci ho messo 2 anni per farla costruire. Aspita, quindi una struttura seria, importante. No, è che pensate voi a far cacciare via tutti quegli albanesi su quel no! terreno? Lei ha sfrattato degli albanesi e ha costruito la residenza Mummolo. Ma certo, avevano rovinato tutto il terreno. Gli ho fatto una colata di 200 km di asfalto. 200 km di asfalto, un'autostrada. Una regione, praticamente. Una regione. Certo. E che aria tira? 2-3 regioni. Ma aria... ma fa un po' freddo. Allora, forse c'è qualche finestra aperta. Ma questo è un cretino. Dai, non è un cretino. Non offende, e poi se la è prende. Ali! Ali! È aperta la porta! Chiudila, fa freddo! Chi è lì? Domestico di merda, no. Non capisce una parola di italiano. Attenzione, che tu cazzo c'hai... l'abbiamo preso a fare? Che cosa l'avete preso a fare allora se poi lo trattate così male? Senti, io lo pago. Posso anche pisciarti addosso a te, capito? Io ti pago. Quanto lo paga? Quanto lo paga? Sono cazzi miei. Vabbè, che servizio offre? Giornaliero? Orario? Vabbè, non è un tassametro. Vieni, lo pago. Vabbè, nel senso, sta tutto il giorno a dare una mano, è un domestico... fisso, oppure lo chiamo... Ah sì, dorme nel capannone. Poi come nel capannone? Ma certo, che io vedo una stanza. È un uomo. Una stanza di casa Mummolo. È un uomo. Scherzando. Dorme nel capannone come i cani. Come si chiama? Ali, l'ho detto prima, sei sordo. Devastato. Madonna, lei però è molto asta. Cioè, mamma mia. Un po' calmiamoci. Volevo sapere come si chiamasse, di che nazionalità è. Guardi, io faccio... Ali, vieni qui. Vieni qui. Vieni. Vieni qui. Allora, Ali, io ti dico, saluta i signori. Ali, saluta i signori. Ali! Ma questa... Mi sembra che sia arabo. Ma lei è un razzista. Lei. Ali, vattene via. Adesso fai una cosa, vai a pulire lì, vai. Lei? Vai a pulire lì. Lei è un razzista. Aia. Non ho capito, puoi ripetere. Lei no, è Alessio. Un razzista. Senta, io non faccio rate con nessuno. È no. Anche ignorante. Razzista. Ignorante razzista, sarà sua mamma che razzista, l'ha messo al mondo pensando di aver fatto una cagata. Razzista, oddio. Ignorante, allora, basta. Volgare. Madonna santa, ma lo sentite quest'uomo? Questo è peggio di quello che è andato la settimana scorsa. Quel cretino, quel frocio con la... Era un onorevole. Vabbè, Sebastiani. Sempre per modo di dire onorevole. No, onorevole votato, coi voti. Ah, quindi è un onorevole prete. No, non prete. È un prete onorevole. No, onorevolmente un no, prete. Voti nel senso di voti elettorali. E chi cazzo l'ha votato questo? Ci sarà qualcuno che l'ha votato, cioè. Si vede che l'hanno votato quando c'erano i filmini senza audio. Perché se lo sentivano parlare così, chi cazzo lo votava questo? C'è male. Mi sembra va bene così. Lei... Porca puntata, no, cazzo dice come parli. Tutti le putti anche milanesi. Ma vada via, chiudo. Va bene. E conti, voglio impettare. Basta. Che schifo. Anche io sono saturo oggi. La salutiamo. Grazie mille per le sue. Arrivederci, signora Scarpa. Arrivederci a tutti. Vota il Papa. Vota il Papa. Dove lo voti il Papa? Dove lo voti il Papa? Allora, dopo questa bellissima intervista, io sono sempre emozionato quando leggo queste cose. Ho bisogno, parte subito la nostra bellissima rubrica dei Darwin Awards. Oh, ok, non vedo l'ora. Attenzione che parte la sigla che mi piace tantissimo. Eccola qua. Quanto è bella questa sigla. Mi viene quasi voglia di ballare. E stai ballando, tra l'altro, veramente. Tanto che voi non potete vedere. Allora, stiamo parlando di un 22enne a Grey Drive, Reston. E questo 22enne fu trovato morto dopo che aveva tentato di usare dei tentacoli di polpo. No, non ci credo. Non sai neanche perché cosa. Dei tentacoli di polpo. Qualsiasi cosa. Hai ragione. Tentacoli di polpo che aveva usato per fare bungee jumping da un traliccio ferroviario di 21 metri. Questa no, è stato premiato a Darwin Awards. No, ricordiamo il premio che premia chi muore per colpa della stupidità. Viene premiato perché elimina dal pool genetico dell'uomo la stupidità. Niente, lui praticamente è stato trovato. Ci va già questo qui che voleva. Voglio fare già bungee jumping. Così non c'ho i soldi per andare in quei centri particolari. Che cosa uso? Una corda? No. Uso, che ne so, un elastico? Ma no, ma quando mai E usiamo dei polpi. Aranfe purpa. Aranfe purpa. Io sono un grande pescatore di polpi. Sì, veramente? Sì, veramente. Non è uno scherzo. Quindi forse anche lui che ha preso questi polpi. È facile, sì, è facile pescare polpi? Sai quanti? No, non è facilissimo. Io amo la tecnica della caccia, del rapporto uomo-animale. Il predatore dei polpi. Quindi solo con il coltello. Okay? Ah, solo con il coltello. Bravo. Però... Per fare, non lo so, quanti metri ci vorranno per fare il bungee jumping? Considerando che non devi cadere, quello rimbalzo, una decina di metri, visto che sono 21. Una decina di metri di polipo, tanto, E quindi diciamo che lui si è organizzato. Di polpo. Ha preparato sono tutto. Sono tanti, Lui si è organizzato, ha pescato i polpi. Tra l'altro ha avuto la geniale idea di come leghiamo questi tentacoli. Col del nastro adesivo, mi sembra ovvio. Ma non ci posso mai E si è legato a un piede. Quindi lui, ogni scelta che fa... peggiora la sua situazione. Allora, in teoria non è stato cioè ogni scelta, capito? Perché sono molto resistenti. Ho capito. Non so quanto sono elastici. Ma capito? Però sì, già l'idea chiaro. Voglio fare bungee jumping e voglio farlo da solo. Sì. E già è sbagliato. Sì, certo. Che cosa uso come corda? Un polpo. Sì. È sbagliato pure no, questo. È terribile. Come li lego questi 10 metri di polpo? col nastro adesivo. È sbagliato pure questo. Come me lo leggo? A un piede, a uno solo. È terribile. E sbagli pure questo. E quindi ovviamente lui è saltato e si è andato a schiantare sul terreno. E si è distrutto. E lo ringrazio ovviamente. Però un coraggioso, dai. Ma la cosa bella, un coraggioso, un temerario. Una cosa bella che voglio dire è che lui, e questo è uno spettacolo, la polizia quando è venuto ha visto che la lunghezza dei polpi era comunque maggiore della distanza, quindi doppiamente, lui, cretino, doppiamente cretino nell'avere l'idea e nel metterla in pratica. Non avrebbe mai potuto, non sapremo mai se dei polpi possono essere utilizzati per bungee jumping. Però chi lo sa, A meno che non ci sia qualche genio che voglia partecipare. Allora, noi salutiamo, prima di tutto bisogna dire questa cosa. È andato in onda un programma l'altro giorno, un programma di Radio 2010 di Fabio Milano e di Fabrizio Schirru, The Bug, che è andata benissimo. È andata molto bene. Complimenti ai due. Gli smanettoni funzionano. I nerd funzionano. Nel senso, quando metti due nerd a fare la radio ed una mandria di nerd, sentono l'odore, sentono l'odore di silicio. Roba come 300 ascoltatori, che è tantissimo, e 14 commenti. Tutti che sono corsi lì sentivano l'odore di byte, di gigabyte, esatto, di microchip. Allora, noi estendiamo la domanda a loro per la prossima settimana. Secondo trovate un voi, paio di fisici. Un paio di fisici, poi se siete dell'ambiente siete. Siete dell'ambiente, trovate un paio di fisici. Secondo fisici, voi. E se, provate a anche dimostrare anche uno di dizione, una cosa grazie del genere. Anche uno di dizione per me, grazie. Vogliamo sapere se dei tentacoli di polpo legati col nastro adesivo sono utilizzabili per fare bungee jumping. Lanciamo questa sfida a voi amici nerd. Vai nerd, vai così, andate. E ora parte il momento dei saluti. Sì, e i saluti bellissimi, eccoli qua. Mamma mia. Prima di fare i saluti che sappiamo, io devo fare un saluto personale. Tu non lo sai, devo salutare una mia persona molto cara che ho, ed è Federica Mancini, che ha avuto dei problemi di salute, per fortuna risolti. Ciao Federica. Voglio salutarla. Riprenditi, per riprenditi, voglio farla salutare anche da me, ovviamente, da tutto il cuore, dal nostro DJ. DJ, salutala. Ciao! E anche da Scanio Mumolo, che ho registrato un saluto da Scanio Mumolo per lei. Mandiamolo in onda. Buonasera, sono Ascanio Mummolo. Mi hanno detto di salutare una ragazza, non mi ricordo il nome. Comunque, ha problemi a espellere dei calcoli, cose del genere. Comunque, non pensa bene. Così, e faccio comunque i miei saluti, dicendo i riprenditi, così poi dopo puoi venire in seggio elettorale a votare per me. Ricordati benissimo, gente per noi, gente per voi, servono tutti. Viva Corona e soprattutto viva il Papa. Fantastico, fantastico. Quindi la ringrazio, le mando un bacio, rimettiti presto. Ciao Fede. Continuiamo con i saluti. Chi dobbiamo salutare? Innanzitutto dobbiamo dire che sabato sera, sabato domani, sera, suonano i Revenants. Noi Quartet abbiamo intervistato, manderemo. Ecco, abbiamo intervistato i Revenants Quartet e manderemo un'intervista sul nostro blog. Mi raccomando, andate a vedere. Sì, molto bella, molto bella. Tra l'altro sarà la puntata di un nuovo programma. Infatti. Un nuovo programma. L'ennesimo programma. L'ennesimo programma che sforniamo programmi come se fossero fiori. Ci siamo, Radio 2010 va via come un fulmine. Come un fulmine. E comunque mi raccomando, è molto bella l'intervista, ci siamo molto divertiti. L'abbiamo fatta io e Alessio, abbiamo intervistato i Revenants Quartet. Mi raccomando, sul nostro blog www.radio2010.com. Sì, molto bene. Chi salutiamo più? Salutiamo innanzitutto Antonella. Antonella del Cerco Un Uomo. Antonella del Cerco Un Uomo, me la ricordo. Antonella dice: ah, ci contatta e fa: sto studiando, che vuoi? E ci dice che la prossima volta verrà qui da me. Beh, non dobbiamo disturbarti. Che acidità. Scusa, non lo troverai mai un uomo con questa acidità. Non lo troverai mai. Mica se l'ha da Dario. E la salutiamo. Ciao Antonella. Poi salutiamo le persone che ci hanno scritto. Come abbiamo già nominato Tiziana, no? Sì, ciao Tiziana, anche Carlo, naturalmente abbiamo nominato. Salutiamo anche Carlo. Basta, sì, abbiamo basta, finito. Salutiamo basta, tutti i nostri ascoltatori. In regia Fabio Milano. In regia Fabio Milano, Andrea Polinastro. Gli amici che ci vengono a trovare ogni tanto. Sì, che sempre, sono sempre ben accetti. Giulio Petafese, Eleonora, grazie, che è la nostra voce femminile, soprattutto quella d'Alessio. E niente, salutiamo così. Grazie a tutti, salutiamo il nostro DJ. Ciao DJ. Buonasera! E allora, mi raccomando, siate curiosi. Ehi, quanto dura? Una cometa. Alla coda. Mi raccomando, siate curiosi. Mi sa stretto lo stivale. Riccardo Cremona. Alessio Strazzullo. Ciao belli. Ciao.